Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sul Stolmore Rock. Sono da una decina di minuti che, come molti sapranno, questa domenica è domenica di intervista, e sono da un quarto d'ora più o meno che sto parlando con adesso dico ragazzi, che mi passano sicuramente il termine, che saranno contentissimi di sentirsi chiamare ragazzi. E quindi bando alle ciance, perché sicuramente qualcuno lo saprà già tramite i vari social dove abbiamo pubblicizzato questa intervista. Sono qui, come dicevo prima, in collegamento con i ragazzi dei Persiana Jones, tra l'altro i due fratelli fondatori, fra l'altro. E quindi, ragazzi, io vi risaluto un'altra volta, che sarebbe la seconda, perché ci stavamo già parlando prima, che così iniziamo già un attimo a fare anche due chiacchiere, non solo come prima, perché, come vi dicevo prima, mi fa piacere intervistare band e membri di band che comunque ascolto da 20 anni, quindi è una piccola soddisfazione mia. Infatti, come vi dicevo prima, probabilmente riuscirò a venire nella data di Moravagine e Persiana Jones, quindi in questo caso ci sono Silvio e Giuseppe del Persiana Jones, che vi risaluto. Quindi ciao ragazzi e benvenuti. Ciao a tutti. Come state? Comunque va bene anche Beppe, perché Giuseppe non mi chiamano da parecchio tempo. Ah, ok, allora io vado con Beppe, va bene, ho la tua autorizzazione, vado con Beppe. Sì, vai tranquillo. No, va benissimo. E ho una domanda di rito, che principalmente nessuno scappa, e probabilmente mi saprete rispondere sicuramente bene anche voi, o comunque che possa interessarvi o meno, perché avete un paio di anni in meno rispetto alla band che il prossimo anno si scioglierà, quindi sto parlando di NoFX. Quindi che cosa sono un po' per voi NoFX, brevemente, perché così dopo vado a introdurre anche la musica e quant'altro. Parli tu, Silvio? Beh, sì, sono una band fondamentale per l'attitudine che hanno avuto, per il modo che hanno avuto di interpretare la musica, le scelte che hanno fatto, alle volte anche particolari, però sono una band veramente fondamentale. Io penso, come tutte le cose che si sciolgono adesso, e fra 3-4 anni si riformano. Perché non ce la fanno stare senza suonare. Perché comunque senza quando suonare vedi... suonare insieme. Noi abbiamo questo nostro amico che ha intervistato Melvin per Strano Podcast, e ho visto le sue foto dal palco di Barcellona. Indubbiamente quando tu vivi 3 giorni, mi pare che abbiano fatto a Barcellona 3 sere sold out, io ho visto le foto dal palco, non puoi stare senza quella cosa lì. Puoi fare 3 anni, ma poi alla fine ti rompi le scatole di andare al supermercato con il carrello o di andare a giocare a golf se hai quella passione. Quell'emozione, quella sensazione che tu provi quando sali su un palco e c'è la gente che urla, non puoi stare senza. Ma perché lo viviamo sulla nostra pelle, perché sono 35 anni che suoniamo? Di sicuro non perché ci guadagniamo, perché non ci guadagniamo, non è il nostro lavoro, ma per quell'emozione che provi quando sali sul palco, quando sai che delle persone, come può essere il tuo caso, la prossima settimana parti, se tu tra in zona Bologna, vieni fino a Vicenza per vedere un concerto di Persiana Jones. Cioè, secondo me questa cosa è una cosa bellissima, ma quel tuo gesto, il gesto di altri 50, 100, 200 che possono essere, non ti dico 200.000 neanche 2.000, perché indubbiamente la scena è calata, ma quando tu hai 200, 400 persone, magari come era Pordenone che ce n'erano quasi 1.000, che cantano e ti urlano in faccia i tuoi pezzi, tu non puoi stare senza quella roba lì. Prima o poi ritorni sempre lì, cadi sempre lì. Ci sta. Beppe invece? Cosa ha significato per me? Un gruppo, appunto, come ha detto lui, fondamentale per la scena punk rock, e per l'attitudine che avevano e per quello che dicevano e che hanno detto nelle loro canzoni. Ci abbiamo suonato anche insieme, li abbiamo visti da vicino, e sono stati, cioè non sono il mio gruppo preferito, nel senso che ce ne sono altri che mi hanno beh, fatto diciamo, posso dire di una più. Posso dire una roba scomoda, però per me è Fat Mike non è un simpaticone, no assolutamente no, per cioè, niente proprio, però assolutamente, cioè le persone simpatiche sono fatte in un altro modo, Io ho questo ricordo, adesso te lo dico perché tanto ce la stiamo raccontando. Quando abbiamo suonato con loro, io avevo i miei primi due figli, io ho tre figli che erano piccoli, avevano 8 e 9 anni. Sono andato al merchandising dei NoFX al pomeriggio, mi sono comprato le maglie e poi sono andato a chiedere di autografarmele. Con Melvin e con gli altri non ci sono stati problemi. Quando è stata ora di chiedere a Fat Mike, me ne ha detto di tutti i colori. Cioè, avevo pagato quelle magliette. È un tipo particolare, ma d'altronde lo dimostra anche gli atteggiamenti degli ultimi anni. È un tipo particolare, però sicuramente una band fondamentale. Vuol dire che negli ultimi tempi comunque sono cambiati, sono migliorati, hanno lasciato da parte molte chiacchiere. Prima c'era tra un pezzo e l'altro troppe parole, troppe cose, quindi adesso ultimamente invece non mi sono dispiaciute le cose che ho visto. Ok. Seconda domanda. Ok, no, va bene, perfetto. Infatti torniamo a quello che effettivamente sono di Persona Jones e per quale motivo ovviamente sono qui in intervista con me. Prima di tutto 333 180 94 94, se aveste qualche messaggio da chiedere o qualche saluto da poter fare ai ragazzi che sono qua con me, Silvio e Beppe di Persona Jones. Sono qui perché sono usciti con un nuovo disco che si intitola il settimo, se non sbaglio, Una vita fantastica. Settimo giusto? Senza togliendo EP e live, se non ricordo. Togliendo gli EP live, allora sì, forse settimo. Dovrebbe essere il settimo. Quindi brevemente, che così dopo lancio anche un primo pezzo, giusto da ascoltarci, una nuova uscita. Cosa ne pensate voi del vostro disco? Vi è piaciuto? C'è qualcosa che ha risultato a posteriori? Mentre lo suonavate dici cazzo figo, ma poi riascoltandolo dici potevamo fare qualcosa di diverso? C'è o com'è andata? No, allora questo qua è per la prima volta, devo dire, per quanto mi riguarda, per la prima volta questo è l'album che sto ascoltando di più, che mi è piaciuto, che ho suonato di più e che mi piace di più. Devi spiegare una roba che sto ascoltando di più, perché sennò la gente non capisce. Quando tu fai i pezzi di un disco, poi li registri, poi li ascolti, poi li riascolti, poi li ascolti in macchina, poi li ascolti sul supporto piccolo, perché adesso si mixa man mano che si va avanti col disco, quindi tu ascolti il mix e dici ok, non mi piace, voglio alzare questo, voglio abbassare, per cui arrivi a un certo punto che il disco l'hai ascoltato tantissimo, non ne puoi più. Silvio è frizzato. È un attimino, ok, ma intanto continua tu che eccolo. Vi ho perso un attimo. Sì, c'è okay. Stato un attimo. Vabbè. No, il discorso dell'album, appunto, lo senti man mano che vai avanti, e suonato di più, perché comunque forse è quello che c'è una maggiore, c'è una ricerca maggiore. L'abbiamo suonato molto in sala prove. L'altra sera mi hanno fatto un complimento sui testi. E sono che mi hanno fatto molto piacere, perché comunque in effetti i testi sono, non dico che sono più ricercati ma sono più maturi per certi versi, e per certe cose li trovo più voluti, più ricercati comunque rispetto al passato, dove magari arrivavi, facevi pezzi in modo differente. Questo è un album che è cresciuto man mano, che non dovevamo neanche fare un album, però è cresciuto in sala prove e dovevamo fare due pezzi e poi dopo ci siamo, ma no, poi tre, poi quattro e poi c'era quell'altro, poi andavi per metterne a posto uno e te ne usciva un altro ancora. E quindi e alla fine sono 13 brani, e questa è la cosa bella di questo album qua, è che appunto non l'abbiamo cercato, ma è venuto benissimo. Come i figli. No, vabbè. Figli quando non li vuoi. Questa analogia è molto particolare, però va bene. Intanto, dopo questa un attimo infarinata, ci andiamo ad ascoltare una nuova uscita col quarto album dei Trophy Eyes. Dopo, ovviamente, andiamo ad ascoltarci anche i brani, i tre brani che di solito andiamo a mettere di chi stiamo intervistando, quindi in questo caso dei Persona Jones. E torniamo a parlare con Silvio e Beppe, dato che ho avuto il benestare. Di chiamarlo come amicone, come se ci conoscessimo da 20 anni, dei Persiana Jones. Stavamo parlando mi chiamano tutti così, eh. Ah, ok, perfetto. Benissimo. No, che così, sì, sì. Sai, dato che ci conosciamo da un paio di giorni sostanzialmente, mi faceva strano chiamarti Beppe come se ci conoscessimo da tanti insieme. No, mi fa piacere. Allora, settimo album, Una vita fantastica. Io sinceramente, mi avete chiesto un po' prima come l'ho trovato, l'ho trovato un po' diverso dagli altri, sicuramente maturo, ma in certi tratti un po' più soft, passatemi il termine, rispetto ovviamente a quello che avete fatto negli anni precedenti. E quindi sono andato a cercarmi i brani un po', quelli che mi sono piaciuti di più, e mi fa un sacco piacere di aver riscontrato una positività di quello che mi avete detto riguardante i pezzi che ho scelto. Infatti, uno dei primi che magari se mi volete dire qualcosa in più, che sarà, ci andiamo a ascoltare più avanti, cioè tra poco sinceramente, Dove sarai con Fit Madaschi, che è un amico, diciamo, ormai di vecchia datissima dei Persiana Jones. Sì. Dove sarai è un po' la prosecuzione di un discorso già affrontato con Dove sei, che era su Puerto Rico. Era su Puerto Rico, sì, forse sì. O su Gara la Honda. A Gara la Honda, non lo so, vabbè. Vabbè, comunque noi abbiamo è la riflessione quando è un discorso già affrontato, perché su quelle amicizie che si perdono o che si dimenticano, o che magari per una fesseria non ci si sente più, o per una incomprensione si va a scazzare in qualche modo. E quindi dove sei era riferito agli amici dei nostri 18 anni e a quello che magari uno poi, le vite che si dividono e che si affrontano cose differenti, mentre invece con questo brano con Mada abbiamo è proprio l'amicizia inteso quello che magari finito di sentire il brano uno dovrebbe dire: sai che c'è, magari chiamo Tizio che non lo sento da tanto tempo, o chiamo quell'altro, perché ti deve far venire voglia di ripianare magari. Ci sono delle volte che hai un amico e lo perdi per una fesseria, e gli amici sono importanti, e quindi noi abbiamo, questo è quello che abbiamo cercato di dire. Poi no, non so Silvio se è frizzato o se è una... Sì, no allora il discorso degli amici è anche un discorso legato a questo disco, perché questo disco, ovviamente, quando abbiamo iniziato a finire i pezzi abbiamo iniziato a pensare: ma perché lì non mettiamo questo qua? Ma perché? Addirittura il primo è stato poi uno che ascolteremo dopo, che è quello con Sergio Berardo dei Ludolphin, è stato il primo che abbiamo tirato dentro. Poi man mano abbiamo tirato dentro altri amici, perché la partecipazione di Madaschi, la partecipazione di Punna, di Gian Maria Fusani dei Sic Tamburo, dei Pancreas, di Andrea Rock, degli Undead, e lo stesso Nitto, c'era lo stesso Berardo. E poi la partecipazione con Nitto dei Linea 77, che secondo me quel pezzo lì è un grandissimo pezzo, un pezzo che è ancora alla base del DJ, perché noi fino a 4 anni fa abbiamo suonato con il DJ, per diversi anni abbiamo suonato, adesso non mi ricordo per quanti, adesso non c'è più il DJ, però quella era una base che era rimasta ancora con lo scratch sotto. 13 anni col DJ. 13 anni. Praticamente Nitto ha fatto questo testo e il pezzo è una bomba, veramente. Via di qua per me è uno dei pezzi più strani e più particolari di tutto il disco. No, infatti ho notato anche, infatti ovviamente mi hai un attimo anticipato una domanda col fatto del discorso dei, dei tanti featuring che ci sono in questo disco. Tra l'altro ho notato che ultimamente anche in altre band ci sono un sacco di featuring, quindi fa, mi fa un sacco piacere, cioè rispetto a un tempo che magari i featuring tra le, anche tra le band italiane ce n'erano pochissimi, negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni più o meno, ho notato che ci sono, ci, c'è più partecipazione tra le band rispetto a un tempo. Anche vedi ovviamente il vostro discorso, anche il discorso dei Pancreas, che anche con i The Roser, i Shandon, bene o male tutti hanno avuto diversi, chi tre, dai tre ai sei featuring ho visto bene o male, quindi ma mi fa un sacco piacere noi, questo. Noi avevamo già in passato, abbiamo avuto comunque le varie partecipazioni, Zazzo per esempio, cantante di Negazione, ha cantato su due album nostri, ma da sempre noi abbiamo avuto questo, questa tendenza, perché se prendi il disco del il mini LP del, del 92, già dentro c'era, c'era un bel po' di gente che suonava, c'era Max questo. Casacci dei Subsonica, che al tempo suonava con gli Africa, figurati, quindi sì, poi e c'era al violino, se non sbaglio al violino c'era Davide Rossi, Davide Rossi, che adesso che la gente è andata a vederlo suonare la scorsa settimana con i Coldplay a San Siro, è lo stesso Davide Rossi che è partito da Torino, quindi questa cosa l'abbiamo sempre avuta, però su questo disco volevamo che fosse veramente una festa. Come secondo me certificare le, cioè una, ci faceva piacere avere comunque gli amici che sul disco e ci, mi fa, a me piace sentire, risentire gli, i, i brani, proprio perché, che ne so, anche poi li sentiremo dopo quello con Berardo o adesso sentiremo quello con Mada, ma quando sento la voce di Mada sul nostro pezzo mi, mi emoziona, perché mi emoziona pensare di aver fatto di nuovo un album e mi emoziona pensare di aver fatto un album con gli amici, quindi certo. Questo. Stavamo parlando del fuori onda di una cosa sinceramente interessantissima, che un sacco retroscena di quello rispetto a quello che si va voi semplicemente a vedere ed ascoltare con mano, che possa essere in formato CD o vinile, che prima di tutto questo pezzo, come mi dicevano Silvio e Beppe, aveva un altro titolo teoricamente, quindi se riuscite brevemente a un po' ripetere quello che avete detto prima, perché era interessantissimo un po' come nascono, un po' come sono nati un po' questi pezzi e un po' come è nato il nome, il nome del, del, dell'album, perché era veramente un discorso che io stavo ascoltando proprio da, semplicemente da spettatore, proprio come se fossi tipo al cinema o al teatro, ed era veramente interessante. Ma stavamo dicendo appunto che tutti i pezzi man mano che crescevano, per identificarli meglio gli davamo un titolo provvisorio, perché così non sapevamo a volte dai il titolo e poi cambierai dopo. La stessa cosa è successa per quanto riguarda il titolo dell'album, che inizialmente doveva intitolarsi Non puoi fermare il tempo, e poi una sera non ci piaceva, avevamo fatto un sacco di bozze delle copertine, quindi stavamo lavorando già sulla grafica mentre registravamo le cose, magari ci trovavamo in studio e chi registrava le chitarre c'erano i fiati e io e Silvio ci guardavamo la grafica e il titolo è venuto fuori così, come così, Una vita fantastica mi è venuto spontaneo, perché in quel momento era tutto così bello, tutto così stava funzionando, eravamo di nuovo lì a fare un disco, eravamo di nuovo pronti, carichi per fare, e il disco stava uscendo bene e quindi e poi comunque è venuto in maniera naturale Una vita fantastica. Certo, certo. Prima di lanciare l'ultimo pezzo, prende la prima parte e poi di conseguenza la pubblicità, andiamo a ricordare un attimo le date che ci sono disponibili, che avete in questo periodo, però spoiler leggermente, ce ne saranno anche altre che usciranno, quindi certo, intanto dimmi adesso, pure. Allora facciamo venerdì 22 luglio, suoniamo a Peraroli di Arcugnano. Sabato. Cosa ho detto? Ho detto venerdì? Venerdì. Sì. Era per vedere se eri pronto. Però se vuoi andare venerdì, vai, però. Ma io vado già un giorno prima. Comunque, okay, il concerto sempre. Allora è sabato. Sabato 22 a Pera Rock vicino a Vicenza. Poi suoniamo sabato dopo, il 29, a Casale Sul Sile Restival. Tra l'altro il 22 suoniamo con i Moravagine e invece il 29 suoniamo con De Rozier e Cattive Abitudini a Casale Sul Sile vicino a Treviso. E poi il 30 invece facciamo il Festival Alta Felicità a Venaus, il Festival Notav, che l'abbiamo già fatto anni fa ed è veramente una situazione incredibile. Ma anche gli altri due festival sono molto belli, quindi se non sapete cosa fare, sono due festival entrambi grossi e entrambi molto belli da vedere. Per Arolo e Casale Sul Sile. E ovviamente, ma è da questa parte di Torino, il Festival Alta Felicità. Benissimo, quindi andatevi a seguire anche sulle loro piattaforme social, che possa essere Facebook o Instagram, dove usciranno anche poi le altre date e avete ovviamente le informazioni per queste date che vi ha appena detto Silvio. Seconda parte di Stormo Rock, sono sempre qui con i ragazzi di PSN Jones, nello specifico Silvio e Beppe, e stavamo parlando in fuori onda durante la pubblicità dei vari ascolti che comunque ha avuto l'album, e mi fa un sacco piacere che abbiate ricevuto tutto questo ascolto. Tipo in 104 paesi è stato ascoltato Una Vita Fantastica, quindi complimenti ragazzi prima di tutto, e di conseguenza mi viene in mente anche un'altra domanda da farvi, ma un tour all'estero riuscirete a farlo? Pensando o non vi interessa? No, noi ci pensiamo sempre, ma cioè è una cosa proprio che anche l'estero è una cosa che se ci sarà l'occasione. Sappiamo già che saremo in Svizzera a novembre, quindi infatti stavamo ragionando di collegare alla data svizzera due date in Germania e due date magari in Repubblica Ceca e fare un tot di date europee, perché in passato l'abbiamo sempre fatto e comunque abbiamo un sacco di ascoltatori, perché guardavo, mi pare che sono 461 ascoltatori dalla Repubblica Ceca, solo dalla Repubblica Ceca, quindi vuol dire che se tu vai a fare un'unica data quello è indicativo, i numeri sono indicativi. È indicativo, però comunque sono 460 persone differenti che hanno ascoltato la tua musica, quindi vuol dire che magari vai a suonare a Praga e suoni davanti a 300, 400, 500 persone, perché in passato era così, o anche di più. Quando fai i festival, ovviamente i festival è un'altra roba, cioè quando abbiamo suonato con i Motorhead è ovvio che avevamo una distesa di gente che non era lì per i Motorhead, era lì per noi. Chiaro, cioè, specifichiamo. Anche quando abbiamo suonato a Roxy, ma no, date, quando anche di seguito ne avevamo, in Repubblica Ceca ce n'era abbastanza, e la cosa che forse manca un po' è mancata la pubblicità su questi, cioè rispetto al passato è mancato il supporto, nel senso ci sono questi che ci hanno ascoltato, ma le potenzialità sono molte di più, so che dovremmo andare a suonare lì, e quindi fino a quando non fai un minimo di campagna pubblicitaria su questi posti, poi i social sono seguiti e non sono seguiti, nel senso che non sono così indicativi. Per noi i dati di ascolto sono molto buoni, non ce l'aspettavamo e quindi va bene così, però sarebbe da battere, da andare in quelle zone e suonare un po' e farsi sentire, come anche la Svizzera, ma anche lo stesso in Italia, cioè non è che tu dici è uscito il disco e lo sanno automaticamente tutti che è uscito il disco, lo sa chi magari ti segue sui social ma e non hai quell'uscita. Sono cambiate le cose, magari da un lato è più facile arrivare alle persone, dall'altro è più complicato, non lo so, ci sono, poi dobbiamo ancora capire bene alcuni meccanismi, secondo me, però no, ci sta, diverse casistiche. Interessante anche questo discorso di numeri dietro quello che è il disco, perché sinceramente non ci si fa mai caso di quanto è ascoltato il disco anche all'estero, dici vabbè io l'ho buttato fuori, poi vediamo un po' come va, però quindi anche qua è molto interessante sinceramente. Secco, qual è il vostro pezzo preferito? Meglio che può. A me personalmente piacciono tutti, non ce n'è uno che non mi piace meno, anche per me è meglio che puoi, in questo momento. Ok. Poi ci sono, prima era Non puoi fermare il tempo, però adesso per me è meglio che puoi, perché mi piace. No, però mi piace suonarla. Ma anche riascoltare il disco. Io l'ho riascoltato l'altro giorno perché l'ho messo nella radio, con il CD l'ho ascoltato nella radio e normalmente lo ascolto su Spotify e quindi era strano sentirlo nel CD, l'ho riascoltato e devo dire che proprio mi piace tutto, quindi sono molto contento di questo disco. No, bene. Bene. E quindi adesso un'altra domanda su un po' effettivamente su tutta la discografia di quello che è il Persiana Jones. Qual è il, come avevo detto prima dell'intervista, il mio album preferito è a Gara alla Onda. Sinceramente il vostro, oltre che l'album preferito, il brano che è ancora più dettagliato, perché dici album generico, il brano che magari vi personifica meglio come band o come magari come persone, che magari potrebbe essere cambiato oppure che in questo momento. Vediamo cosa dice Beppe, perché io so qual è il mio. Ah, è uno già. Il brano preferito tuo? Il brano preferito. Allora, qual è il tuo brano preferito? Non devi dire solo il tuo brano preferito. Non è cambiato niente. È il tuo brano preferito, non è cambiato niente. No, non volevo farlo. Per me è a Gara alla Onda. Premarella. Sì. Correndo solo. Quelle classiche. Sì, a Gara alla Onda, correndo solo, sono quelle che mi piacciono di più. No, però anche su questo disco ce ne sono certe che secondo me hanno tanta roba. Potrei dirti un'altra vita. È difficile, non c'è un brano preferito tra tutti quanti. Io penso che quando sono nati, cioè, io sono legato per esempio a Brivido Caldo perché lo ritengo l'album della svolta nostra, ma nello stesso tempo sono molto legato a Just for Fun perché è un album completo. Noi abbiamo attraversato vari periodi della nostra vita. Abbiamo attraversato dei vari periodi, quindi siamo passati dall'inizio, i primi pezzi dei picture disc erano molto sempliciotti, se vogliamo, poi siamo passati al periodo sudamericano, perché eravamo presi dalla cumbia, dalla musica sudamericana, quindi abbiamo fatto tre brani del 92, poi dopo siamo passati e abbiamo attraversato, magari c'è stato un momento che ci piaceva un po' di più lo swing, allora ci sono stati due o tre pezzi su Siamo Circondati, e tutti gli altri. Con le coriste. Avevamo le coriste, per esempio. Però, per esempio, io ritengo che abbiamo. Poi siamo passati, abbiamo fatto Siamo Circondati, poi c'è stato Brivido Caldo, che comunque c'è stato il primo cambiamento, che già c'era stato su Siamo Circondati, perché Tyson Shock è di Siamo Circondati. Ed era un pezzo che non era per niente ska classico, ma era già contaminato con le chitarre distorte. Quindi quando siamo passati a fare Brivido Caldo, che è stato quello che ha dato il primo cambio, l'abbiamo consolidato nel 99 con Puerto Urraco, e nel 2001 abbiamo avuto un ulteriore cambio, perché grazie alla collaborazione con Darian Randall, che comunque era un produttore americano e tutto, abbiamo già, ci sono i tre brani che ha registrato Darian, sono molto belli, perché sono A Gara alla Onda, Correndo Solo e Ore e Giorni, però tutto l'album, e poi il resto è stato registrato con Madaschi, tutto l'album aveva già delle cose interessanti. Poi c'è stato Brace for Impact, che è l'album più duro, è l'album che c'ha più asciutto, che, è un album asciutto quello lì, che ha avuto molte critiche perché quando è uscito, perché era molto più punk rispetto al passato, e che però molti l'hanno rivalutato col tempo, perché è un album che comunque aveva un pezzo ska. Aveva un solo pezzo ska, però è molto, molto interessante come album. E poi c'è stato, secondo me, il 2007 con Just for Fun, produttore Carlo Rossi, con il DJ, fatto in un certo modo, i pezzi arrivavano al termine di era un periodo che suonavamo tantissimo all'estero ed eravamo molto più completi. Secondo me è l'album più completo che mette insieme tutti gli album, tutti gli altri album, e poi è quello che abbiamo proseguito nel 2014 con Ciano Magenta Yellow. Abbiamo proseguito su quella strada lì, l'abbiamo fatto con Ancora e adesso con Una Vita Fantastica abbiamo praticamente è un jazz for fun senza il DJ, però secondo me i brani, perché ho detto non è cambiato niente, perché è un brano che mi è sempre piaciuto molto sia suonarlo che quando l'abbiamo fatto, ma io di qualsiasi album cioè Un'altra Vita per me è un pezzo al quale sono beh, Un Giorno Nuovo. Un Giorno Nuovo, Puerto Raco, cioè esatto, sì, tutti i pezzi. Però se devo dire io dal vivo quello che se mi dicessero puoi fare un pezzo a Lollapalooza, o faccio A Gara alla Onda o faccio Correndo Solo. Ok. Ok, no, ci sta, anche a me questa decisione piace e sono concorde con voi. Siamo verso gli sgocci dell'intervista. Intanto è arrivato un messaggio che dice: hanno ragione, Just for Fun, album completo, sono affezionatissimo alla mia strada, grandissimi Persiana Jones. Quindi grazie mille. Grazie. Giuseppe, grazie. Fra pedici non l'ho detto, Giuseppe. Allora, siamo in dirittura, sostanzialmente quasi in dirittura d'arrivo. Intanto sento gli uccellini che dicevi tu, Silvio, che fanno atmosfera, come dicevamo prima. Sì. Che sì, proprio fanno natura, fanno estate anche. Copro le cuffie, si sentono lo stesso. No, non importa, non cambia. Allora, un'altra domanda che vedo male, vado sempre a fare verso la fine, perché ho notato che lascia un attimo è destabilizzante, perché essendo molto aperta uno ci deve un attimo pensare. Quindi vado a chiedere: c'è qualcosa che non vi ho chiesto o che volete dire riguardante l'album o qualsiasi cosa in generale che non... Dove si può trovare? Che cosa? L'album? Sì. Non ci hai chiesto dove si può trovare. Giusta osservazione. No, l'album no, è solo perché, allora, non essendo entrato nella distribuzione non essendo finito in nessuna distribuzione, l'album si può trovare sul sito della Watts Record, quindi wattsrecords.com, e si trovano gli album, le magliette, tutto quello che volete di Persiana Jones. C'è il formato, c'è sia vinile che CD, oppure se uno lo vuole ascoltare prima di comprarselo e vuole lo trovi su tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Apple Music a Amazon Streaming o qualsiasi, anche su YouTube lo trovate dappertutto, e quindi non ci sono problemi. Se invece lo volete proprio fisicamente vedere, avere in mano l'oggetto, allora wattsrecord.com. Benissimo. Bene, tu spot pubblicitario fatto. No, beh, ma ci sta, siamo qui, siamo qui apposta, ovviamente, per oltre che per promuovere l'album, quindi mi sembra doveroso anche dire che se qualcuno vuole il formato effettivamente fisico. Tu, Silvia, qualcosa da aggiungere nel caso? C'è qualcosa che non ho chiesto, che vuoi aggiungere? Dici, cavolo, vorrei dire questo. No, solo questa cosa per le date, per i concerti. Se vogliono seguirci, ovviamente, sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram, è il modo più veloce per capire dove suoniamo. Anche lì contatti e concerti, Watts Record, potete scriverci tranquillamente o direttamente su Persiana Jones, info Persiana Jones, rispondiamo, siamo qua, noi siamo sempre disponibili a qualsiasi cosa proposte. Hai visto che fare l'intervista con noi non è che ci hai messo molto, quindi infatti è stato molto molto molto spesso adesso andiamo un attimo a dire come mi interfaccio alle band, avendo Instagram ovviamente, chiedo direttamente alle band se per un'intervista, quindi è molto spesso, anzi praticamente sempre va a finire che ovviamente ci si scambia numero di telefono o tramite mail e riusciamo tranquillamente a fare l'intervista, perché come dicevo è una cosa che mi fa un sacco piacere riuscire a parlare e fare delle domande, curiosità che magari mi tengo da dietro da 20 anni, che non sono mai riuscito a chiedere o che altro, quindi grazie ragazzi ancora per la disponibilità, no, prima di tutto vuole. Perché non sono cose scontate, quindi vi dicevo questo. Mi dicevate anche che brevemente verso la fine che avete curato anche il discorso della copertina dell'album, giusto? Se sì, abbiamo fatto la parte grafica. Ok, ma siamo stati dietro a tutti i file di stampa e Beppe è diventato matto con i file di stampa, perché la differenza tra CD e vinile è veramente complicata. Abbiamo già anche fatto tutto il merchandising nuovo, quindi ci sono anche già tutte le magliette nuove, gli accessori nuovi, tipo quest'anno abbiamo fatto le tazze che era una roba che non avevamo mai fatto, le sacche abbiamo fatto le sacche, perché la sacca di tessuto, quella di nylon, quindi abbiamo delle cose particolari, quindi. No, bene, molto interessante, no, quindi... poi ci piace seguire, a noi piace seguire queste cose dall'album alla grafica all'impaginazione, così come al merchandise. Non abbiamo sono cose che seguiamo io e lui da una vita, da sempre praticamente, e quindi anche in questo caso ci siamo affidati a noi stessi, al nostro gusto. No giustissimo, sì. Giustissimo, metterci mano anche effettivamente a quello che vuole anche produrre, quindi come dicevamo prima, oltre che andarvi a trovare il disco dei Pessina Jones, Una vita fantastica, e probabilmente anche quelli precedenti, whatsrecords.com, oppure andatevi a vedere in una delle date che andiamo a ripetere verso la fine, che dove sicuramente troverete il nuovo merchandise, quindi sabato prossimo con i Moravagine a Vicenza e gli altri con il 29, vai, finisci tu pure. 29 facciamo Casale sul Sile e il 30 suoniamo a Venaus per Alta Felicità Festival. La prima data, quella della prossima settimana, il festival si chiama Pera Rock, quindi Arcugnano, Perarolo di Arcugnano, vicino a Vicenza. Per essere precisi. Posto bellissimo. Esatto, quindi io sono praticamente arrivato addirittura d'arrivo, ho il tempo per poter mettere l'ultimo pezzo dei Pessina Jones, che è Io dico no, da Una vita fantastica, quindi io ragazzi vi ringrazio per la disponibilità, mi ha fatto un sacco piacere avervi qua in intervista con me, e ci vediamo alla prossima. Grazie. È stato un piacere per noi. Grazie ragazzi. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti e a domenica prossima.